Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, quindi reduci da quella che ormai alcuni chiamano la fiera delle vanità, ossia il workshop Ambrosetti a Cernobbio. Poi dirò qualcosa anche su questo, perché mi sembra che come sempre in questo paese prevalgano delle volte così alcuni giudizi, ma in realtà nessuno deve chiedere a Cernobbio, al workshop Ambrosetti, quello che Cernobbio e il workshop Ambrosetti non ti può dare. Da sempre, la dico subito, dai, in tutto il mondo esistono momenti, noi non siamo particolarmente così fanatici né tifosi sfegatati dei vari Davos, Jackson Hole e altri simposi e summit che vengono organizzati in tutto il mondo, però nemmeno facciamo le anime belle, per cui se obiettivamente c'è un luogo di incontro in cui manager vari pagano per ascoltare giudizi e scenari di economisti, di ministri, di politici, di presidenti, di capi di Stato, presidente del Consiglio, ex capi di Stato, ex presidente del Consiglio, se lo pagano, ci vanno, ascoltano. Non ci troviamo nulla di strano, non abbiamo mai pensato che né da workshop Ambrosetti, né da Davos, né da altri luoghi più o meno ameni potessero arrivare le grandi ricette per il futuro, tant'è che proprio su Davos, visto che ne parliamo, abbiamo avuto in tempi non sospetti anche così l'immodesti di criticare una sessione e vari appuntamenti in cui poi nessuno era riuscito a prevedere la crisi che sarebbe scoppiata, tranne Nuria Rubini a dirla proprio tutta, che nel 2006, se non ricordo male, da Davos annunciò che il giocattolo si stava rompendo. Detto questo, e al di là appunto del fatto se sia o no, diciamo, utile andare al workshop Ambrosetti, a me sembra che il punto vero sia che cosa farà adesso il governo, che quali priorità si darà dal punto di vista delle riforme, e quindi snellimento burocratico, riforma del mercato del lavoro e tassazione sulle imprese. Poi di tutto il resto possiamo parlare se annunciare questi provvedimenti alla Camera, al Senato, con un Twitter, a Cernobbio, a Brescia o in villeggiatura. L'importante è che i provvedimenti arrivino, e di questo parleremo nella seconda ora del programma, tra l'altro avendo ospiti gli imprenditori, uno dei quali è stato quello che ha organizzato l'evento di sabato mattina ai Rubinetterie Bresciani, mi riferisco a Aldo Bonomi, dove erano presenti sia il presidente Confindustria che appunto il presidente del Consiglio. Altre notizie di cui ci occuperemo, c'è una notizia che non riguarda l'Italia in senso stretto, ma riguarda il mondo del cosiddetto bianco, ossia gli elettrodomestici da consumo, perché c'è un'operazione importantissima che riguarda Electrolux sulla parte di General Electric che si occupa di appunto elettronica da consumo. Il valore dell'operazione è di 3 miliardi e 300 milioni di dollari. Electrolux, che è il colosso scandinavo nel mondo del bianco, come si appunto si chiama in gergo, ha lanciato un'offerta ha raggiunto un accordo per comprare in contanti, e quindi non con uno scambio azionario, la parte di General Electric, che si chiama GE Appliances, che è uno dei principali produttori di elettrodomestici per la cucina e lavatrici negli Stati Uniti, dove ha negli Stati Uniti il 90% del suo fatturato. E tra l'altro è uno dei prodotti più conosciuti nelle case americane. Con un'acquisizione del genere Electrolux mette un bel piede, diciamo così, nel mercato americano e si rafforza come player globale negli elettrodomestici. Tra le altre notizie vale la pena ricordare come oggi la sterlina, ma qui il motivo si chiama referendum sull'indipendenza della Scozia, abbia toccato il nuovo minimo sul dollaro, soprattutto dal novembre del 2013. Nei confronti dell'euro siamo a 0,80, e visto che sto dando il rapporto euro-sterlina, diamo anche quello euro-dollaro a 1,2949. Quindi sempre alto secondo noi il valore dell'euro sul dollaro, ma sicuramente resta sotto quota 1,30 come effetto delle misure e delle parole anche di Mario Draghi. 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo anche della TASI, perché oggi giustamente Il Sole 24 Ore del lunedì fa notare come, nonostante abbiano avuto più tempo, solo la metà dei comuni ha fissato il livello del prelievo, la parte che è di pertinenza del comune. Sempre secondo quanto scrive Sole 24 Ore, oltre l'85% dei comuni applicherà il tributo sulla prima casa, però attenzione, manca ancora metà dei comuni all'appello. Poi c'è una replica del Lanci, ne parleremo in apertura. Dicevo, adesso le altre notizie in breve. Giapponese, partiamo da lì. Oggi si è contratta, è andata peggio delle attese, quindi a giudicare da questi dati l'Abe Economic, quindi quell'iniezione di soldi pubblici e anche di sburocratizzazione, di maggiore concorrenza che è alla base dell'economia del presidente Abe, non sta dando i risultati attesi. Ha fatto infatti l'economia giapponese un meno 1,8% rispetto all'anno prima, e il PIL ha fatto meno 7,1% rispetto all'anno prima, tra l'altro più pesante del meno 6,9% che era l'effetto, però era, il dato era arrivato nel 2011 dopo lo tsunami in Giappone, e minore comunque del meno 15% che fece il PIL giapponese dopo il crack di Lehman Brothers. I dati, e quindi una contrazione sia a livello congiunturale, cioè sul trimestre precedente, che a livello annuale, aprono dei dubbi sugli effetti del rialzo dell'IVA che il premier Shinzo Abe ha annunciato ed è operativa dal 1 aprile. L'IVA in Giappone passa dal 5 all'8% e sempre Abe ha annunciato un ulteriore rialzo dell'IVA al 10%. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove il segretario al tesoro americano Jack Lew ha annunciato una decisione per scoraggiare e impedire la fuga delle multinazionali per motivi fiscali, decisione che sarà presa a breve. Lì stanno attenti che le aziende non scappino per l'eccesso di pressione fiscale. Ma sempre dagli Stati Uniti è interessante notare come la mitica università americana, una delle più importanti della ristretta cerchia dell'Ivy League, e mi riferisco a Harvard, ha incassato la maggior donazione della sua storia. Sapete che nelle università americane si fanno le donazioni, spesso, anzi, sono uno degli strumenti per fare fundraising. Comunque, la maggiore donazione della sua storia è arrivata da un cinese di Hong Kong, ha donato 350 milioni di dollari all'università. Lui si chiama Gerald Chan e ha studiato ad Harvard ed è figlio di un magnate del real estate appunto a Hong Kong, e il regalo comunque rientra nell'ondata di enormi donazioni ricevute dagli atenei e dalle scuole americane, che a questo punto hanno patrimoni importanti oltre che poter contare su fondi propri. Chissà se si arriverà mai in Italia a un processo di donazioni importanti da parte di imprenditori, manager, non è che manchino i manager che hanno buone uscite importanti con i soldi per le università, come segnale che appunto uno, non dico ridà, ma dà, oltre che aver ottenuto, dà anche alle future generazioni. Sarebbe un bel segnale, immagino, senza nessuna polemica da parte poi di chi gestisce l'università, perché insomma sono donazioni per far crescere l'università. Qualche notizia dall'Europa, sempre alle prese con l'inflazione, le riforme dei paesi. Allora, nell'ordine oggi, il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, dice attenzione, i paesi europei non usino la bassa inflazione come paravento per rinviare gli sforzi necessari sulla spesa, cioè non smettano, ammesso che abbiano iniziato a rimodulare e rendere più efficiente la spesa pubblica sfruttando la bassa inflazione. Però, aggiunto sempre alla Lagarde, la congiuntura non deve giustificare nemmeno nuovi aumenti delle tasse. Poi il leader della CSU tedesca, quindi i cristiano democratici tedeschi, Seehofer, ha attaccato le misure di Mario Draghi. Se il capo della BCE Mario Draghi apre il rubinetto della BCE e contemporaneamente compra titoli di spazzatura, questo fa paura a molta gente. È nostro compito criticare questa tendenza all'indebitamento. È nostro compito invece, aggiungo io, chiedere a Seehofer che legga bene le misure di Draghi, al di là degli slogan, anche in Germania. Perché se lei legge bene, non è che debba difendere Draghi, si difende benissimo da solo, però le misure che lei chiama titoli spazzatura, in realtà è l'acquisto di ABS, Asset-Backed Securities, di altissimo livello, cioè crediti che spesso le banche hanno erogato, ma a creditori di alta qualità, per cui che avrebbero riavuto indietro, semplicemente incassano i soldi prima del tempo. Ci sono poi alcune, c'è la possibilità anche per i mezzanine, crediti diciamo buoni ma non col voto massimo, a fronte di garanzie. Quindi che la BCE si compri titoli di spazzatura lo possiamo ascoltare in un bar, ma non certo dal leader del primo partito tedesco, Horst Seehofer. Ancora, per quello che riguarda la Germania, c'è un giudizio negativo anche del ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, il falco del governo Merkel, che dice: attenzione, c'è un eccesso di liquidità e dubito che sia sostenibile. Sul fatto che ci sia un eccesso di liquidità, invece questa volta io sono d'accordissimo con Schäuble, cioè queste misure hanno un senso se poi questa liquidità viene incanalata, ne parlavamo anche venerdì, da Cernobbio, se viene incanalata poi verso investimenti produttivi, non se alimenta bolle diciamo di vari mercati, mobiliare o immobiliare poco mi interessa. Ancora, Schäuble continua: se attraverso l'aumento del debito si fossero potuti risolvere tutti i problemi, l'Italia non avrebbe più alcun problema. Va bene, battuta, una stoccata contro l'Italia. Però aggiunge Schäuble: Matteo Renzi sta seguendo l'approccio assolutamente giusto per quello che riguarda le riforme strutturali profonde nel suo paese. Quindi plauso del falco a Renzi, che infatti non ama i gufi, ma forse magari amerà i falchi. E dice Schäuble: posso solo sperare che abbia successo con le riforme. Però poi c'è un altro parlamentare tedesco della CDU, Norbert Bartle, che ha la delega al bilancio. Dice: viene il dubbio che la Banca Centrale Europea in questo momento sia più vicina a Roma e a Parigi che alla Germania. Allora, io non lo so, è chiaro che la Banca Centrale Europea si deve preoccupare dei paesi in maggiore difficoltà, perché o l'euro resiste tutto o salta tutto, forse anche in Germania dovrebbero capirlo. Però mi faccia fare una battuta, caro deputato parlamentare Norbert Bartle. Vabbè, dopo anni in cui la BCE era più vicina alla Germania che alla Francia, alla Spagna e all'Italia, ci possono anche essere anni in cui la BCE è più vicina a Francia e Italia che alla Germania. O rimpiangete Trichet e il suo incubo dell'inflazione a tutti i costi mentre l'Europa stava frenando, entrando nella più grande recessione del 29. Vabbè, un po' per uno, dai. Anche perché la Germania continua, merito suo, a macinare record, ha toccato un nuovo record nelle esportazioni, oltre 100 miliardi, più 4,7% l'export tedesco a luglio, merito dei tedeschi e delle loro imprese. Il surplus, la differenza tra quanto esportano e quanto importano, è di 23 miliardi e mezzo, anche perché le importazioni stanno calando. E Berlino si beccherà nuove critiche per un'economia che esporta tantissimo, importa pochissimo, importa poco anche dall'Europa, quindi questi soldi li mette in cascina. Si vorrebbe invece per un maggiore equilibrio dentro l'area euro, che così come ci sono alcuni paesi che devono chiudere e tirare la cinghia, chiudere la scarsella, si dice in Veneto, il portafoglio, il borsello, e sono appunto Spagna, Francia, Italia, per non parlare di Grecia e Portogallo, altri paesi che hanno ben incassato e ben guadagnato per merito loro non abbiano proprio il braccino così corto. E allora si chiede alla Germania di fare investimenti, non di spendere i soldi e buttarli via, ma di fare investimenti infrastrutturali, di far ripartire la dinamica dei consumi. Altrimenti tu hai un paese ricchissimo che non spende, paesi con i debiti che non possono spendere, e poi ti lamenti che i consumi in Europa stanno a zero e la deflazione avanza. Tra l'altro il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, in un'intervista al Financial Times proprio da Cernobbio, perché sarà anche il luogo delle così delle vanità, però poi qualcuno dice anche cose serie, ha detto: attenzione, ci vorranno 3 anni per vedere gli effetti delle riforme in Italia. E tutte le previsioni puntavano a una crescita del PIL italiano, invece poi sono state riviste al ribasso. Speriamo, ha detto Padoan, che non ci sia un terzo calo. Eh sì, perché ha aggiunto il nostro ministro dell'economia l'introduzione di parametri nell'area euro per misurare e confrontare le riforme strutturali servirebbe a creare fiducia, ma anche a disciplinare i paesi. Le privatizzazioni sono fondamentali, ma soprattutto è fondamentale la loro tempistica. Però attenzione, perché insomma, io vorrei dare, se il ministro non si offende, un piccolo gufo al ministro Padoan, perché ha detto: speriamo che non ci sia la terza caduta del PIL. È un po' una gufata, lo è, dopo come è andato i primi 2 trimestri, anche perché aveva detto il giorno prima che vedeva il segnale di ripresa. Ministro, non si offenda, ma scaramantico, un bel gufo anche per lei. Intanto appunto il ministro da Chernobyl ha detto: vedo sintomi di ripresa, ci vorranno, il programma dei 1000 giorni serve a ridare la competitività al paese. I 1000 giorni sono il contesto nel quale si inizia a non solo introdurre riforme e misure nel paese, ma si continua ad applicare le riforme effettuate e si cominciano a vedere i risultati, in modo tale che la fiducia, la confidence ritorni. Questo è uno dei problemi fondamentali che secondo me negli ultimi mesi sono peggiorati: il fatto che bisogna ridare fiducia alle famiglie e fiducia alle imprese. E poi le anticipazioni arrivate sempre da Chernobyl da parte del ministro Padoan sulla prossima legge di stabilità. La legge di stabilità a cui il governo sta lavorando è basata sui principi che ho esposto. È parte fondamentale di una strategia di crescita basata su riforme strutturali, misure di sostegno agli investimenti e alla competitività, da realizzare all'interno di una prospettiva di consolidamento del bilancio, riqualificazione e riallocazione della spesa e conferma delle misure economiche già prese, come il bonus IRPEF, i benefici fiscali alle imprese, il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione. La legge di stabilità va vista come uno dei primi passi di una strategia di 1000 giorni che porta il Paese su un sentiero di crescita più forte e più ricco di occupazione. È anche, ritengo, un contributo essenziale per una ripresa della crescita e del rafforzamento della stabilità in Europa, in cui restiamo uno dei principali Paesi. E poi sulle riforme, ha detto: le riforme hanno un ruolo centrale, migliorano la finanza pubblica, quelle del lavoro ha un ruolo centrale su tutte. E poi ha detto sempre il ministro da Chernobyl: sono stupito che ci si accusi di fare solo annunci, è tutto il contrario degli annunci, forse il limite del governo è che non sa comunicare bene quello che sta facendo. Non si butti giù, ministro. In realtà questo governo comunica tantissimo, soprattutto il Presidente del Consiglio. Comunica anche troppo, dicono alcuni. Twitter, slides, conferenze stampa. Non mi sembra che il problema del governo, adesso con tutto il bene che si può dire, sia l'assenza di comunicazione né la non presenza dei membri del governo e del Presidente del Consiglio nei mezzi di comunicazione. Per cui stia sereno visto che era un hashtag famoso di Renzi. No, dico stia sereno, perché la comunicazione del governo la fa. Il problema dell'annuncio o dell'annuncite, come l'ha chiamata Renzi stesso, è dato dal fatto che ha messo in cantiere tante e tali di quelle cose, che poi il rischio di non capire che cosa si stia andando a chiudere e quale sia il percorso effettuato da alcune misure. Facciamo l'esempio di una grigliata in cui tu metti pezzi di carne con diversi tipi di cottura, rischi di bruciare alcune cose e di non cuocere a sufficienza altre. Ecco, questo è il rischio che vediamo, ma non che il governo non sappia comunicare. Veramente non mi sembra che sia questo il problema. Intanto le auto blu in Italia, lo comunica il Formez, che su incarico del Ministero della Pubblica Amministrazione conduce il censimento sul parco vetture. Dicevo, le auto blu in Italia sono scese. Questa è una buona notizia, anche se non è così che raddrizziamo i conti, ma è un messaggio importante anche a livello simbolico. Dal 2011, da inizio 2012 ad agosto 2014 sono scese di un terzo, cioè ci sono 2.851 auto blu in meno, da 8.619 a 5.768, ben venga, 33% di auto blu in meno. A maggior ragione è importante, seppur simbolica, una notizia come questa nel momento in cui si sta verificando, si è già verificata, diciamo, la settimana scorsa, una protesta che non ha precedenti in questo paese da parte delle forze dell'ordine. La linea dei sindacati della polizia del COCER è netta. La protesta finisce se si elimina il tetto salariale imposto dal 2010 a tutto il personale in uniforme. Una richiesta che vale non meno di 800 milioni di euro. Ora, voi sapete come la pensa chi conduce questo programma, è giustissimo ridurre la spesa pubblica, i 400 miliardi sugli 800 complessivi che sono la parte più variabile, a maggior ragione i 130 miliardi di spese per beni intermedi, che vuol dire gli approvvigionamenti della pubblica amministrazione, i 30.000 centri di costo che abbiamo in questo paese, per cui non si riescono a fare gare di un certo tipo, tutto quello che volete, però anche lì un paese serio non va a bloccare tutti gli stipendi nello stesso modo, visto che ci si parla tanto di merito, di meritocrazia, non va a considerare la pletora di funzionari di alcune partecipate o municipalizzate o partecipate dagli enti locali, i casi che raccontiamo da due anni, dai camminatori agli avvistatori di neve a quant'altro, non li tratta nello stesso modo le forze dell'ordine, casomai chiede alle forze dell'ordine di essere ancora più efficienti, ma non mette sullo stesso piano il funzionario della pubblica amministrazione dell'ente locale inutile, raccomandato, magari assenteista, con chi il suo lavoro lo fa bene, uno Stato serio. Allora, dicevo, 800 milioni servono. Oggi Filippo Bubbico, che è vice ministro all'interno, è intervenuto al programma di Simone Spezia Effetto Giorno e ha chiarito che pagarli tutti in una volta sarebbe impossibile. Però si può iniziare a prevedere degli scaglioni, a dare questi 800 milioni in tranche. Questo è un lavoro impegnativo, ma le posso assicurare che è un lavoro in atto e sono convinto che la soluzione riusciremo a trovarla e a condividerla con tutti i rappresentanti sindacali delle forze di polizia. Che cosa pensate? Immagino qualcosa di transitorio. Quanto sono le risorse? Quanto serve, Vice Ministro? Una prima quantificazione, diciamo, segnala una cifra abbastanza impegnativa, circa 800 milioni. Senta, Vice Ministro, io immagino, mi scusi, a mettere insieme 800 milioni per il 2015 secondo me non si riesce, magari mi sbaglio, io non sono Piercarlo Padoan, però se andiamo ad aggiungere 800 milioni ad una legge di stabilità già piuttosto carica, per così dire, di aspettative, non ci si riesce. Immagino stiate pensando a una soluzione progressiva. Io penso che sia ragionevole intanto definire complessivamente la questione e poi fare le cose possibili, anche perché l'impossibile nessuno è in grado di garantirlo e di realizzarlo. Ma io mi permetto di dire che lo sblocco completo, mi scusi, lo sblocco completo nel 2015 è impossibile. Credo proprio di sì. Allora, vedremo, ma il resto della linea che uno Stato serio distingua all'interno della pubblica amministrazione. Io vedo alcuni messaggi in cui sembra che tutti i dipendenti di pubblico impiego siano uguali. Ripeto, tra un insegnante che fa bene il suo lavoro, pagato poco, un poliziotto, un carabiniere che fa bene il suo lavoro, pagato pochissimo, le strutture sanitarie pagate quando lavorano bene poco, e tutta la pletora di funzionari, di custodi, di dipendenti. Andate a vedere le regioni, che cosa succede dentro le regioni di questo paese. Io non ce l'ho con le regioni in senso stretto, però è innegabile, grafici alla mano, che il debito italiano inizia a crescere per poi esplodere da quando abbiamo istituito le regioni, che altro non sono che la duplicazione dei centri di costo su base regionale, con gli stessi parlamentini, la stessa arroganza, le stesse priorità. Allora, o chiudiamo Roma o riduciamo anche il potere delle regioni. Detto questo, numeri alla mano, in Italia ci sono 560 agenti ogni 100.000 abitanti, e il numero è alto, ma gli organici sono destinati a ridursi sensibilmente nei prossimi anni, con un turnover al 55%. Perché dico che è alto? Perché in Spagna sono 470, in Francia 380, in Germania 300. Nello specifico poi ci sono 105.000 carabinieri, 95.000 poliziotti, le fiamme gialle 60.000. Nessuno sta dicendo che non si debba fare anche maggiore efficienza dentro le caserme, dentro le questure, e quindi sgravando anche incarichi burocratici amministrativi, alcune scorte che abbiamo visto nel passato. Però attenzione, il blocco degli scatti e degli adeguamenti può avere un impatto medio di 5.000 euro l'anno sulle buste paga degli agenti. Non è poco, e solo un poliziotto su 15 percepisce il bonus di 80 euro. Quindi il ministro Madia poteva starsene, con tutto rispetto, zitta nel dire avete avuto gli 80 euro, se non conosce le cifre esattamente. Poteva stare zitta in generale, perché con quel Twitter ha creato, poi anticipato un blocco dei salari. Almeno queste comunicazioni non datele via Twitter, datele a livello ufficiale, fate una bella conferenza stampa, annunciate con un comunicato la misura. Comunque vedo molti messaggi, alcuni messaggi che riguardano invece la vicenda di Napoli, che non c'entra nulla con questo programma, e quindi non entro certo su quello che è chiaramente un errore di un carabiniere, oltre che il dramma di un ragazzo che ha perso la vita. Però visti certi messaggi, fatemi dire su una cosa: tutto giusto, chiedere giustizia è correttissimo in questi casi. Vorrei vedere le stesse manifestazioni con la stessa richiesta di giustizia, con la stessa partecipazione, anche quando la camorra, anzi ancora di più se permettete, quando la camorra spara e ammazza qualcuno. Lì non vedo però certi quartieri di Napoli o di altre parti del sud bloccarsi perché la camorra ha ucciso per sbaglio qualcuno, eh? Vabbè, andiamo avanti, dai. Sì, vabbè, il carabiniere deve marcire in carcere, dice, sì, va bene, dai, ok. Voglio gli stessi messaggi la prima volta che c'è un passante ucciso dalla camorra, ma di più, perché in questo caso sappiamo che è un errore del carabiniere, eh? No, perché sennò viene il sospetto che tra chi manifestava ci fosse anche una cultura antistato pronta a prendersela subito con i carabinieri, che hanno sbagliato, il carabiniere che ha sbagliato, ma era lì per lavorare e mettere un po' di legalità in zone in cui la legalità manco si sa cosa sia, altro che i motorini in protesta. Andiamo a vedere poi chi partecipava al funerale. Non voglio parlare di questo, dicevo, volete invece sapere che cosa ha detto Marchionne esattamente di Montezemolo da Cernobbio, che appunto sarà anche la fiera delle vanità, però qualche notizia ce la dà, e allora sentiamo Marchionne su Montezemolo. Sono cose che non avrei mai detto io su me stesso, no, come amministratore delegato. In realtà cosa qua? No, io mi considero totalmente essenziale, ma so benissimo che sto al servizio dell'azienda. Quindi crearsi posizioni, illusioni che siamo al di fuori delle regole, al di fuori della dipendenza che esiste tra aziende e amministratore delegato, sono cose che sappiamo, non esistono. La cosa importante per la Ferrari non sono soltanto i risultati economici, ma è vincere. E sono 6 anni che stiamo facendo una fatica da Dio, abbiamo i migliori piloti. Guardi che sia Alonso che Raikkonen sono campioni del mondo, non è di che sono tutte e due, non riusciamo a portare a fare, mi dà un fastidio enorme, lo stiamo guardando da parecchio tempo, sono cose che non vanno bene. Allora, perché siamo tornati con la mia testa in una giungla? Perché non riusciamo di nuovo, riprende la stagione e torniamo con la Tasi. Allora, ricorderete la vicenda della Tasi, è stata data la possibilità ai comuni di decidere in due, diciamo, scaglioni. Allora, il Sole 24 Ore scopre, e lo scopre nel numero edicola oggi, il Sole del lunedì, che la Tasi, quindi il nuovo tributo sugli immobili che deve servire a finanziare i servizi indivisibili dei comuni, beh, ecco, solo la metà dei municipi ha fissato il livello del prelievo. Secondo l'elaborazione del CAF ACLI per le sole 24 ore, l'aliquota media sulla prima casa si attesta all'1,94 per mille, ossia il doppio del livello base dell'1 per mille. Addirittura l'11% dei comuni supera il 2,5 per mille, e oltre l'85% dei comuni applicherà il tributo sulla prima casa. Scarse le detrazioni previste, solo nel 43% dei casi, quindi meno di un comune su 2.494 comuni. Nel 2012 invece, con l'IMU in vigore, c'erano infatti agevolazioni fisse per tutti, ora invece la scelta è a livello locale. E insomma, in questo modo è inutile che ci giriamo attorno. Il rischio che di fatto poi aumenti la pressione fiscale, a me non me ne frega nulla se su base nazionale, IRPEF, IRAP, su base regionale, addizionale, oppure poi su base comunale, come anche in questo caso la TASI, quello che conta poi a fine mese è quanto ci ha lasciato di tasse. Cristiano Dell'Oste, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Cristiano, voi avete scoperto che in realtà c'è anche un ritardo ancora più ingiustificabile da parte dei comuni. Sì, c'è un ritardo nelle decisioni e c'è un tema di rincari nelle delibere che via via vengono pubblicate sul sito ufficiale delle finanze in questi giorni. Tra l'altro il termine entro cui deliberare è il 10 di settembre, mercoledì, dopodomani di fatto. Poi dobbiamo anche dire che c'è un naturale disallineamento, nel senso che dopo che la delibera viene approvata dal Consiglio Comunale la pubblicazione non è immediata sul sito delle finanze, però sta di fatto che a venerdì scorso le delibere pubblicate erano 4.752 su 8.000 erotti comuni, quindi è chiaro che siamo ancora indietro. Allora, la data ultima innanzitutto, poi veniamo alle scelte intraprese da chi ha invece già fissato l'aliquota di pertinenza comunale. La data ultima è il 10 di settembre, quindi dopodomani, dicevamo, entro cui il Consiglio Comunale, non la Giunta, non altri organismi, ma il Consiglio, deve fare la delibera con le aliquote TASI. Se questo succede, i contribuenti che non hanno ancora pagato l'acconto perché a giugno il loro comune non aveva deliberato, lo faranno entro il 16 di ottobre. Se invece il comune non decide entro il 10 di settembre, allora cosa succede? Si va a pagare al 16 di dicembre con un'aliquota standard che è dell'1 per 1000 fissata appunto su base nazionale dalla legge. Allora, e quindi andrà in maniera automatica sulla legge. Ecco, l'altra cosa che invece è interessante in chi ha scelto l'aliquota è sostanzialmente, dicevo, non giriamoci attorno, che tutti, non tutti, la maggior parte dei comuni si colloca nella fascia più alta. Noi consideriamo che la TASI funziona in questo modo: il comune può decidere se istituirla o no, e però vediamo che di fatto soltanto il 15% dei comuni ha scelto di non istituirla sull'abitazione principale. Poi chi la istituisce mediamente si colloca in un'aliquota che è dell'1,94 per 1000, quindi molto vicino al livello massimo del 2,5. Contiamo che l'1 è la base, 2,5 è il massimo. Poi certo la legge dà anche la possibilità di andare oltre il 2,5 sfruttando un margine di incremento ulteriore, e in questo caso abbiamo visto che c'è un 10% di comuni che lo fa, lo citavi tu in precedenza. È chiaro che siamo di fronte a un trend al rincaro, anche perché c'è da dire una cosa: su questi 4.000 erotti comuni che ha analizzato il CAF ACLI ci sono anche i circa 2.200 che avevano già deciso entro maggio e che tendenzialmente hanno aliquote un po' più basse, perché si sono mossi per prima, avevano bilanci più stabili, meno problemi di contabilità e così. Insomma, chi arriva per ultimo è probabile che arrivi con dei rincari, ecco, non è una regola, però diciamo, è possibile. Diciamo che se, mettiamola così, a pensare male si fa peccato, diceva Andreotti, ma ci si azzecca. Diciamo che se tu avessi deciso per la parte più bassa della TASI e non per rincari, magari lo annunciavi subito, forse arrivi all'ultimo per non dare più possibilità di aprire polemiche, tanto la data ultima è già passata. Grazie Cristiano Dall'Oste del Sole 24 Ore. Adesso andiamo col traffico e poi la borsa. C'è qualcuno che, io ripeto, in questo programma non parliamo di quello che è successo a Napoli, ma che uno mi scrive: lei è per l'ordine a pistolettate, ovviamente non contro quelli con i vestiti a righe e la valigetta e la valigia 24 ore. Guardi che abbiamo chiesto a suo tempo, l'abbiamo rifatto, che arrivassero punizioni esemplari per chi ha creato la più grande crisi finanziaria nel 2007-2008, e abbiamo anche criticato l'America e anche l'Europa quando questo non avveniva, e che le colpe venissero date non solo contro una generica Wall Street o finanza di matrice anglosassone. Abbiamo solo detto che delle volte tutte il cordoglio va bene, ma l'indignazione che vediamo a Napoli nei confronti di un carabiniere che ha sbagliato delle volte negli stessi quartieri non la vediamo quando è la camorra che uccide. Si può dire questo? Se lei poi ha capito un'altra cosa, non so cosa farci. Allora, la borsa, non ci sono altre notizie da Maranello, oltre a quella che vi ho dato in apertura. Borsa oggi debole, meno 0,47% Milano, devo dire che Parigi fa meno 0,26%, Francoforte invariata, Londra meno 0,30%. America leggermente negativa, meno 0,1%, euro a quota 1,2941, Telecom più 2, Finmeccanica più 0,60 come Ferragamo e il Banco Popolare e ST Microelectronics che invece guadagna mezzo punto percentuale. Questi gli unici titoli veramente positivi. I cali non sono fortissimi. Saipem meno 2,80, Mediaset meno 1,60 come Buzzi Unicem, l'1,5 lo perde Monte dei Paschi, l'1,20 Fiat e A2A, l'1,1 UX e UbiBanca, l'1% il calo di Tenaris ed Eni, ma anche di Autogrill. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Telecom Italia. Telecom Italia rimane sotto i riflettori visto che c'è molta carne al fuoco. Innanzitutto si è un po' smorzato, si sono smorzate le ipotesi su un avvicinamento a Mediaset che non a caso ha lasciato sul parterre l'1,6% dopo però essere salita quasi del 10% la scorsa settimana. Inoltre si infittiscono le ipotesi che Telecom possa pensare di vendere la controllata TIM Brasil visto che pare dalla stampa brasiliana che Oi sia sul punto di inoltrare un'offerta attorno a 10 miliardi, è da vedere però se Telecom accetterà l'offerta. Patuano nei giorni scorsi da Cernobbio, Patuano è l'amministratore delegato, ha ribadito che TIM Brasil rimane strategica e che anzi c'è un progetto di accelerare gli investimenti. Ancora sui titoli, dicevo, al di là della vicenda Telecom Italia, oggi abbiamo visto andare bene anche un titolo come Finmeccanica più 0,72%, un po' di recupero su Ferragamo più 0,60%, Mediaset invece? Mediaset appunto ha perso oltre l'1%, la scorsa settimana era salita del 10% perché Giuseppe Recchi, il presidente di Telecom Italia, sempre da Cernobbio, ha detto che non ci sono contatti in atto tra Mediaset e Telecom, contro invece quello che aveva sostenuto un po' la stampa della scorsa settimana, ipotizzando un avvicinamento tra i due gruppi. Ha detto che se di avvicinamento si può parlare sarà solo in termini commerciali. Ancora per quello che riguarda altri titoli, beh, Fiat, visto le insomma, polemiche su Ferrari e appunto la quasi certezza che Montezemolo lascerà. Sì, Fiat è andata male, ma non solo per immagino. Poltrona diciamo di comando di Ferrari che sta traballando, ma soprattutto perché nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne ha aperto un po' la possibilità che possa essere effettuato un aumento di capitale. Il manager infatti non ha escluso l'operazione, ma ha detto semplicemente che deciderà il consiglio di amministrazione di fine ottobre. Ovviamente il mercato guarda sempre avanti, ha iniziato a mettere in conto queste ipotesi. E allora, migliori e peggiori in assoluto invece oggi sul listino, El Venture Group più 17, High Real più 13, Fiera Milano più 5,80, Aeroporto Firenze più 5,50, i peggiori, poca roba, ben instabili, meno 3,20, Gas Plus meno 3%, Lucisano Media Group meno 3,70, Sunshine Capital Investment meno 3,20%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso invece ci occupiamo dell'operazione da 3 miliardi e 300 milioni di dollari con cui Electrolux, colosso scandinavo del bianco di lavatrici e elettrodomestici, ha acquisito il colosso americano dello stesso settore che faceva parte della General Electric. Allora, Allora, operazione importantissima, non solo per il valore, 3 miliardi e 300 milioni di dollari in contanti. Marco Valsani è in collegamento con noi dalla sede del Sole 24 di New York, buonasera. Buonasera a voi. Electrolux è una multinazionale svedese, ha 60.000 dipendenti nel mondo, 22 impianti in Europa e ha un quarto di tutto il mercato mondiale degli elettrodomestici ed è anche il numero due in America e va, tra l'altro in Italia è famosa anche per le vicende di carattere occupazionale, ha 4 impianti a Porcia, Pordenone, a Forlì, a Solaro e a Susegana in provincia di Treviso e ha chiuso nel 2009 lo stabilimento di Scandicci. General Electric, la divisione elettrodomestici, invece ha 12.000 dipendenti, ma la cosa importante è il ruolo che ha, diciamo così, tra le famiglie americane, Marco. Sì, è un simbolo storico della corporate America, presente in tutte le case americane, diciamo che è tant'è vero che Electrolux manterrà il marchio General Electric per questo suo sbarco, diciamo, in grande stile, questo suo potenziamento in grande stile sul mercato statunitense, e diciamo grazie all'acquisizione diventa il primo anche produttore di elettrodomestici, di grandi elettrodomestici anche sul mercato americano, con una quota stimata attorno al 26 o oltre il 26%. Il leader attuale che è la Whirlpool, tra l'altro nota in Italia perché ha comprato la quota di maggioranza della Indesi recentemente, ecco, la Whirlpool ha una quota attorno al 25%. E quindi, diciamo, l'operazione è importante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche dell'immagine stessa. Electrolux a questo punto diventerà unendo il fatto che lei fosse già il numero due nel mercato del bianco, unendosi a General Electric e elettrodomestici, diventerà un player globale e il numero uno in America. Esatto, un fatturato globale credo sia stato intorno ai 25 miliardi di dollari e numero appunto uno in America testa a testa, diciamo, sorpassando appunto la Whirlpool. Avrà anche delle ricadute diciamo internazionali, come ha detto i suoi stessi vertici, perché diciamo grazie alle sinergie, grazie alla capacità di combinare queste attività, dovrebbe anche liberare risorse per investimenti fuori dall'America e quindi potenziare la propria competitività e la propria penetrazione sul mercato anche proprio a livello internazionale. Sarà in grado, diciamo, di investire maggiormente in sviluppo, dove diciamo che in questo momento la frontiera, diciamo, è per essere competitivi. Ho capito il ragionamento, non tutti i passaggi perché la linea era molto disturbata, chiedo scusa agli ascoltatori, però insomma è chiaro che con questa operazione Electrolux la parte di General Electric che si compra va a superare Whirlpool nel mercato americano e mette chiaramente una testa di ponte anche per tutto il mercato del Sud America. Grazie a Marco Valsania in collegamento con noi da New York. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Allora, avevo detto nella prima ora ci occupiamo di imprese, noi ci occupiamo sempre di imprese, ma perché oggi abbiamo un approfondimento specifico? Perché, come ormai sanno tutti, al di là della polemica che, ripeto, non mi interessa tra meglio Cernobbio o altri luoghi e quindi workshop Ambrosetti, sabato scorso il Presidente del Consiglio Renzi ha inaugurato il nuovo stabilimento delle rubinetterie bresciane del gruppo Bonomi, un investimento da oltre 50 milioni di euro, 100.000 metri quadrati, oltre 200 persone sulle 287 in totale che ha il gruppo. E nel frattempo, mentre i giornali spesso si occupavano della polemica, a noi interessa capire esattamente che cosa chiedono gli imprenditori, sia come imprenditori sia nel loro ruolo che hanno anche in Confindustria. Ecco perché ringrazio il presidente delle rubinetterie bresciane, Aldo Bonomi, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Lei è stato anche presidente della Confindustria Bresciana e vicepresidente di Confindustria. Allo stesso modo ringrazio anche il presidente dei giovani imprenditori di Un'Industria Bologna che ci ha raggiunto il collegamento, Gian Guido Riva, buonasera anche a lei. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie Sebastiano, va bene così. A me, no no, nel senso, non ci formalizziamo. Allora Bonomi, al di là di Chernobyl, non so se lei avesse cercato il paragone tra Gussago e Chernobyl, a me interessa capire in maniera molto concreta, al di là degli slogan, intanto il suo giudizio su quello che vi ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma poi ci racconti anche un attimo, così facciamo capire a tutti che cosa serve a questo Paese, quanto è facile, per modo di dire, aprire un'impresa o meglio un nuovo stabilimento in Italia. Prego Bonomi. Allora, per prima cosa, mi ha convinto perché? Perché l'ho sentito molto vicino alle imprese, l'ho visto sinceramente impegnato nel cercare di risolvere i problemi anziché continuare a piangersi addosso dicendo che ci sono solo problemi e non si possono risolvere. Noi abbiamo bisogno, come imprenditori, come tutte le aziende, abbiamo bisogno di un capitano che ci dia una spinta morale a uscire dal guado e ci dia anche soluzioni. Però è chiaro che, come l'ha detto ieri Marchionne, occorre scegliere le priorità. Io credo che ci siano determinate priorità per noi, quanto abbiamo detto, quanto ho detto io, ho richiesto al Premier sabato, abbiamo chiesto fisco, lotta agli sprechi e lotta alla burocrazia, perché è necessario per poter uscire dal guado e per accelerare sulle riforme. Credo che sia questa la cosa fondamentale. Quindi come Confindustria siamo a disposizione del governo, ma anche come imprenditori. Abbiamo detto, ci sono tantissimi imprenditori in Italia che sono disposti ad investire, a investire tanto, ma devono avere una determinata certezza di poter riuscire, con i rischi a cui sono sottoposti tutti gli imprenditori. Ecco, nel caso specifico, perché noi da tempo abbiamo lanciato uno slogan, non so se il termine sia giusto, ma la sostanza è abbastanza facile, e cioè la Bassanini per le imprese. Cosa vuol dire? Vuol dire che una delle grandi rivoluzioni della pubblica amministrazione italiana è stata la legge Bassanini, quella che ha introdotto l'autocertificazione, per cui tu non devi più andare all'anagrafe a farti dire che tu sei tu. No? E l'autocertificazione ha snellito moltissimo le procedure burocratiche. È chiaro che ha previsto anche sanzioni pesantissime nel penale, nel caso uno dichiari il falso. Allora si diceva, ma perché invece di metterci 2 anni e mezzo, la media che ci vuole per aprire un'impresa in Italia, tu fatte salve tutte le norme di sicurezza, non fai aprire, l'imprenditore diciamo garantisce il rispetto di tutte le norme previste, l'impatto ambientale e quant'altro, tu lo fai aprire, vai non è che eviti i controlli, li mandi gli ispettori, i controllori, se becchi l'imprenditore che dichiara il falso ha un aggravio di pena e di sanzione fortissimo, ma intanto apre, perché noi partiamo dall'idea che un imprenditore che vuole aprire uno stabilimento nuovo tendenzialmente vuole stare nella legalità, e poi diciamo con quello che leggiamo in questi anni, Caserta ma non solo, chi vuole delinquere e sversare nel territorio lo fa con o senza le procedure, i 2 anni e mezzo, ci vogliono il doppio dei mesi che in Spagna, il triplo che in Germania e in Francia per aprire un'impresa in questo paese. Allora lei, quando ha dovuto aprire il nuovo stabilimento, quello appunto in cui è venuto Renzi, che problemi, se li ha incontrati, magari è andato tutto quanto bene, ha incontrato e con che tempi? Guardi, io sono stato direi molto sfortunato, perché io probabilmente la media di 2 anni e mezzo, anzi certamente me la sono sognata. Io ho impiegato 7 anni per poter iniziare, per poter concludere. 7 anni. 7 anni? Sì, 7 anni. Perché? Ma perché erano lunghi perché i lavori? Perché c'era la strada, perché c'era l'autostrada, perché c'era la superstrada, perché c'era il comune che voleva i soldi, ancora prima che noi partissimo. Abbiamo speso per oneri di finanziamento, enormi oneri ancora prima di partire, pagando sui 120.000 metri quadri che andremo a coprire, o che 100.000 che andremo a coprire. Abbiamo anticipato tutto e poi alla fine non siamo stati, non dico ringraziati, a noi non serve essere ringraziati, non siamo stati aiutati a fare dei posti di lavoro. Questo è quello che ci ha dato fastidio, tant'è che assieme a mio fratello volevamo cambiare posto per andare da un'altra parte dove forse le aziende venivano accolte. Adesso il tempo è cambiato, ma è lo stesso identico problema per tutti. Noi dobbiamo essere nella legalità, nessuno di noi ha problemi. È vero, dobbiamo essere controllati, saremo controllati, ma anche con la finanza siamo controllati, eppure le tasse le paghiamo. Dobbiamo essere facilitati, noi non siamo facilitati, questo è il problema reale, e non abbiamo la certezza, che è la cosa che ci manca fondamentale, non abbiamo la certezza del diritto. Mi scusi, ma 7 anni e mezzo per aprire uno stabilimento, no? si possono giustificare perché avete avuto degli intoppi anche, non so, ingegneristici nella costruzione? Assolutamente, assolutamente no, perché avevamo ben chiare le idee di quello che abbiamo fatto. Abbiamo perso noi circa un anno, è vero, abbiamo perso un anno, ma perché? Perché è venuta la crisi nel 2008 e le cose devono essere risolte in brevissimo tempo. Noi abbiamo dovuto aspettare perché c'è stata la crisi, ma avevamo già iniziato, avevamo tutto, abbiamo atteso un anno su 7.5, uno è stato colpa nostra, ma perché? Perché abbiamo aspettato tantissimo tempo prima e oggi con la velocità di realizzazione, con la velocità di esecuzione che ci deve essere nei progetti e nelle idee, dobbiamo poterlo fare in breve tempo. È ecco, passato il tempo di attese. Ma racconti, ci racconti a tutti. Quindi un anno avete, diciamo, dilazionato voi o rinviato l'investimento, ma gli altri 6 anni e mezzo per aprire uno stabilimento, cioè, vorrei capire come sono andati persi. Sono andati persi per la burocrazia, per gli accordi che abbiamo dovuto trovare con il comune. Il comune non era interessato ad avere un'azienda come la nostra, che oggi è in classe A, è una delle migliori aziende che ci sono, perché dice che aveva sufficientemente aziende. Volevano mettere nel nostro terreno una rotonda che invece era giusta e è rimasta sulla strada statale. Poi è arrivata la Brebemi e quindi volevano entrare nel nostro terreno perché arrivava la Brebemi, la tangenziale della Brebemi. E tutte le pastoie burocratiche che abbiamo. Quando dobbiamo presentare un progetto, dobbiamo presentarlo, adesso non so il numero, ma forse in 20 copie, poi c'è una piccola cosa che non va bene e che quindi bisogna ripetere le 20 copie, bisogna aspettare che il comune decida che cosa deve fare, bisogna che si trovino, poi per caso è cambiato il sindaco del comune e quindi abbiamo dovuto ricominciare l'iter perché è cambiata, sono cambiate le persone che devono decidere. Questo è stato il nostro problema più grave. Vedo molti messaggi che dicono che citano altri casi, leggo in ordine sparso, anche per aprire il nuovo stabilimento e mega headquarter della Diesel di Renzo Rosso a Breganza ci sono voluti 7 anni per i permessi e 2 per costruirlo, anche il caso del pastificio Rane in provincia di Verona. Sì, purtroppo li raccontiamo da anni, però l'importante è capire che poi tutto si può dire, gli obiettivi alti, poi nella realtà di tutti i giorni uno si scontra con queste vicende che possono sembrare prosaiche, minime, ma poi ti bloccano. E mi piace la battuta di chi dice, immagino che sia solo una battuta, chi vuole ancora aprire qualcosa in Italia va segnalato al sindaco per un bel trattamento sanitario obbligatorio. Sì, perché rischia di sembrare quasi un pazzo. Allora, Riva, voi vi occupate di un cambio di passo che è necessario tra i padroni e i custodi, però poi gli argomenti sono alti, ma la realtà di tutti i giorni è molto bassa, quando ascoltiamo quanto ci ha messo Bonomi e perché ci ha messo Bonomi 6 anni per aprire uno stabilimento a Gussago con il sindaco che diceva non ci serve un altro stabilimento, ma anche un sindaco adesso facesse, capito, pianificazione modello i piani quinquennali. Prego, Riva. Ma guarda, noi tra giovani vorremmo solamente che l'Italia prendesse coscienza che si sta limitando la generazione che nel mondo è quella che è il boost dell'economia. Sostanzialmente sono dati più che conclamati che sono le start-up, le aziende che creano quell'occupazione che viene persa per sistematica ricerca di profitto nell'existing firm. E questo succede quando si sviluppa l'environment migliore per la nascita di queste startup. È chiaro che ancora è più che dimostrato che la disoccupazione giovanile è più grave quando dove si sviluppa in paesi in cui le infrastrutture digitali, che sono appunto l'environment necessario per molte delle startup, latitano, e questo succede in Italia. Ecco, noi stiamo conseguentemente facendoci sempre di autogol, perché è vero che l'economia è il dottor Bonomi che deve aprire grandi stabilimenti industriali, ma è anche tante nuove aziende che poi possono diventare dall'altra parte del mondo, nella San Fernando Valley, grandi imprese che creano tanta occupazione e che danno tanta cultura di impresa. Quindi quello che noi chiediamo è sostanzialmente che si prenda atto che ci potrebbe essere una generazione di persone, di imprenditori e di imprese che potrebbero aiutare tantissimo questo paese e che in un secondo momento, perché naturalmente nascono delle piccole imprese, si possa anche metter mano a qualche legge che possa incentivare fiscalmente o in altre modalità l'accorpamento, la fusione di piccole imprese. Questo sì, tra le start-up e tra i giovani, ma anche il grave problema, secondo me, dell'imprenditoria italiana e del tessuto economico italiano, che è troppo frammentato e negli ultimi anni questo si sta dimostrando sempre più grave. Guardi, l'ultimo dato, guardavo un dato della World Bank e a far compagnia all'Italia con una media di 51 e più small, micro, medium enterprise per 1000 abitanti, cioè Paraguay, l'Ecuador, la Nigeria, la Grecia, la Spagna, il Portogallo. Con questi sono i nostri compagni di viaggio, probabilmente in un business model che non è più quello vincente. Lo è stato in passato, sicuramente, o ce l'hanno raccontato. Adesso questo non è. È chiaro che per l'individualismo italiano insieme si apre le pizzerie o di fianco all'altro, ecco, ci vorrebbe qualche cosa che ci regolasse e ci spingesse. Allora, se ho ben capito, lei dice, attenzione, perché qua ci sono due modelli, quello che noi già conosciamo, che resta comunque un modello fondamentale per il nostro paese, che incontri i problemi di cui Bonomi purtroppo è solo un esponente, non è che abbia avuto sfiga lui, che capita sempre così. Poi c'è tutto un mondo di imprese più piccole, voi le chiamate microimprese e quant'altro, che si rivolge anche e soprattutto, anche se non solo, al mondo giovanile, alle start-up che lei faceva riferimento tipicamente, che però, se mi permette, ha in qualche modo gli stessi problemi su scala minore di chi fa impresa classica manifatturiera, perché quando tu hai vincoli burocratici, le pastoie burocratiche, non ne esci, sia che tu voglia fare un'impresa con 10 dipendenti, sia che tu voglia aprire una pizzeria, come raccontammo anni fa in quel bellissimo libro Volevo solo vendere una pizza, sia che tu debba fare uno stabilimento come quello che ha fatto Bonomi, da 50 milioni di euro di investimento e 100.000 metri quadrati. Bonomi, su questo, lei quando ha visto Renzi, al di là del fatto che voi foste l'Italia vera, non foste quella così di Cernobbio, ma lei gli ha chiesto esattamente una delle tabelle di marcia sulle cose che più vi interessano? Cioè, la sburocratizzazione si fa a costo zero. Poi bisognerebbe anche fare una riforma del mercato del lavoro e cercare anche di ridurre per quanto possibile le tasse sulle imprese. Così la capisco io l'agenda, però prego. Ascolti, io ho chiesto la riduzione delle tasse, perché al 65,8%, che è poco auspicabile traguardo che abbiamo raggiunto adesso, le aziende possono morire di tasse. 65,8 vuol dire 20 punti in più di media delle altre nazioni, vuol dire non poter competere. Questo abbiamo chiesto. Oltre a questo, la sburocratizzazione, perché è a costo zero. Non abbiamo chiesto tante cose. E la terza cosa che abbiamo chiesto è la possibilità di poter lavorare. Vogliamo essere competitivi, vogliamo un'Italia in cui l'Italia è competitiva. Il sistema Italia deve essere competitivo. Per quanto riguarda le piccole aziende, io credo che con i contratti di rete, dove l'Italia, se probabilmente lo sapete tutti, con il World Economic Forum siamo al 49esimo posto. Per quanto riguarda le reti di impresa, siamo al primo posto. E allora dateci una mano Stato, dateci una mano Governo, per farsi distaccare ancora di più gli altri, per permettere alle piccole imprese di potersi aggregare, di poter mantenere la propria autonomia, la propria storia, la propria indipendenza, ma di poter fare massa comune per diventare più forti, per competere sul mercato mondiale. Chiarisco a tutti, la rete di impresa è un modo, diciamo, una via italiana, dico italiana nel senso che con il tipo di manifattura che abbiamo noi, fatta anche e soprattutto di piccole e medie imprese, di distretti industriali, ma non di grandi nomi, non di tanti grandi gruppi industriali, è un modo per ovviare al problema dimensionale. Siccome sui mercati ricchi, Brasile, i BRICS, Indonesia, sono mercati distanti e ci vogliono le dimensioni perché sono mercati enormi, allora la rete di impresa vuol dire mettere assieme imprese, probabilmente di un distretto, ma magari possono essere messe assieme anche per altri motivi, che restano divise tra di loro come proprietà, ma hanno delle agevolazioni fiscali a lavorare, la dico in maniera un po' semplice, a lavorare assieme, anche e soprattutto sui fronti esteri, e però questa cosa viene agevolata, cioè la creazione di una rete di imprese che può essere orizzontale, cioè dello stesso settore, oppure verticale, diciamo dal fornitore nella pipeline, nella filiera fino alla parte finale. Dicevo, in questo modo viene agevolata una idea di massa critica che altrimenti non riusciremo a fare, perché è inutile sperare che gli imprenditori si fondano, vendano e si uniscono. Bonomi, quanta speranza ha? Poi lo chiedo anche a Riva, ho un minuto scarso. Dopo aver incontrato Renzi, si sente meglio o peggio? Mi sento molto meglio, bella, pieno di energia, con voglia di fare. E poi metterei anche lei al governo, caro Barisoni. No, ma lasci perché con le idee che ha, sì, vabbè, almeno dai, Bonomi, può essere costruttivo, perché ci vogliono idee e voglia di fare. Le ha fatto male vedere Renzi. Di parlare. Ci vogliono idee e voglia di fare. Va bene, grazie per l'endorsement, Bonomi, ma temo che dovrà continuare ad ascoltarmi per radio. Riva, le priorità, e soprattutto in questo momento avete, visto che voi siete giovani, un po' più di fiducia o no? Mi dica la verità, fine. Ma io le posso dire che sicuramente dobbiamo continuare con la strada intrapresa e che abbiamo deciso di sostenere. È un consiglio al presidente Renzi: stop con la demagogia e tenere sempre in considerazione che l'Italia senza gli imprenditori non va da nessuna parte. Grazie, e vedremo se qualcosa si sbloccherà. Ecco, c'è qualcuno che dice: ecco, ma voi parlate perché l'editore del Sole 24 Ore è la Confindustria. Guardi che parliamo anche del mondo del commercio, dell'immobiliare, dei mercati, della politica estera. Parliamo anche delle imprese, perché fino a prova contraria chi crea lavoro in questo paese si chiama impresa privata e anche grandi casi di eccellenza pubblica. Non ci sono tanti altri modi per creare lavoro sul territorio. Comunque, grazie a Aldo Bonomi, presidente del Rubinetto Bresciano, e grazie anche a Gian Guido Riva, presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna, che appunto si interrogano sul cambio di passo necessario. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.